Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Partiamo oggi dal tema dell'agricoltura. Si è infatti concluso da poco l'intervento del Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale Paolo De Castro al Consiglio Informale Agricolo Europeo in corso a Vilnius. Nel corso del suo intervento De Castro si è rivolto ai ministri europei per sollecitare la chiusura dell'iter negoziale della riforma della politica comune che ha appunto tenuto fuori dall'accordo una serie di aspetti, accordo che è stato chiuso il 26 giugno. Allora, per quanto riguarda l'importanza della PAC, basterà ricordare che un terzo dell'intero bilancio comunitario è appunto dedicato alla politica agricola comune. Allora, sentiamo De Castro subito dopo l'intervento a Vilnius. Durante l'accordo sulle prospettive finanziarie, i capi di Stato e di Governo il 7-8 febbraio avevano incluso alcuni elementi che riguardano la degressività, cioè il taglio degli aiuti, il capping, avevano incluso una flessibilità di spostamento di risorse dal primo al secondo, dal secondo al primo pilastro della PAC e avevano incluso il tema del cofinanziamento. Questi temi non sono stati negoziati durante i lunghi 52 triloghi che abbiamo fatto con la Presidenza. Quindi ora che l'accordo sulle prospettive finanziarie è stato concluso, tornano questi punti nelle rispettive commissioni. Quindi noi dobbiamo negoziare tutto. Nei prossimi giorni dobbiamo fissare un trilogo o due triloghi per concludere questi ultimi punti che non erano stati negoziati. Ecco, questo era Paolo De Castro al Consiglio Informale Agricolo, trilogo, forse un termine sul quale vale la pena di soffermarsi un momento, è entrato ormai a far parte del linguaggio dell'Unione in quanto processo decisionale previsto dal Trattato di Lisbona e in sostanza vuol dire una trattativa tra Commissione, Parlamento Europeo e Consiglio. Bene, passiamo oltre e parliamo invece della proposta fatta dalla Commissione europea per un nuovo atto legislativo per prevenire e gestire la minaccia rappresentata dalle specie invasive. Quello che sentiamo alien species continue entering and also spreading in the European Union. In sottofondo è il commissario europeo all'ambiente Potocnik, sloveno. Ecco, qual è la questione? Attualmente in Europa si contano oltre 12.000 specie strane agli habitat locali, circa il 15% di queste specie, quindi circa 1.500, sono considerate invasive e in rapida crescita. Sono piante, animali, molti conoscono la nutria o l'ambrosia nel campo delle piante che provoca tante allergie. La proposta dunque avanzata dall'Unione Europea intende rispondere ai problemi sempre più numerosi causati da queste specie esotiche invasive. Pensate che ogni anno in Europa causano danni per almeno 12 miliardi di euro. Sono pericoli per la salute pubblica, basta pensare alla zanzara tigre, per la perdita dei raccolti, ma anche per i danneggiamenti diretti. Ci sono addirittura vere e proprie piante mangiatrici di cemento. Ecco, Potocnik, commissario all'ambiente, ha dichiarato che la lotta alle specie esotiche invasive è l'esempio classico di un settore in cui l'Europa dà il meglio solo collaborando. Il testo di legge che proponiamo, dice il commissario, aiuterà a proteggere la biodiversità e mira a permetterci di concentrare l'azione sulle minacce più serie. Bene, con questo è tutto per il nostro appuntamento di oggi. Europa 24 torna domani. Un saluto da Gigi Donelli. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.